Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta, sentendoti vicino. Chi di voi ha la cicletta a casa? Ditelo alla vostra amico al 349-238-6666. Mandate un messaggio vocale. Intanto buongiorno a voi, ma arriva subito la seconda domanda. Che ne fate? Perché di solito dopo le prime settimane l'entusiasmo si spegne. Segno inequivocabile della fine del nostro amore tra noi, insomma dell'amore tra noi e la nostra cicletta, quando iniziamo a usarla come appendiabiti. Allora, se siete arrivati qui a questo punto, voglio tentare il tutto per tutto e convincervi a darvi e a darle una seconda chance. Ci aiuta oggi il dottor Mattia Cappelletti, che è medico esperto in nutrizione applicata e sport. Dottor Cappelletti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Finisce spesso così la nostra povera cicletta. Ci appendiamo il reggiseno, le calze, la camicia. Camicie sono, è ottima in realtà per le camicie dal manubrio, però vabbè, si può anche utilizzare per fare sport. Vede? Ecco, quando mi ha detto della camicia ho capito che era preparato sul tema. Senta, dottor Cappelletti, prima di provare a fare di nuovo amicizia con la nostra cicletta, passiamo in rassegna un elenco di vero e falso, perché sulla cicletta si sente dire di tutto e di più. Allora, chiariamoci le idee. È amica delle ginocchia, vero e falso? Vero, vero, vero. È un toccasana per la schiena. Abbastanza falso. Aiuta a buttare giù la pancia e le maniglie dell'amore. Vero, se usata bene. Fa bene per allenare il cuore. Vero. Può essere usata da chi ha un problema di tendini, legamenti, è stato infortunato in qualche modo. Assolutamente falso. Allora mi dia due buone ragioni per ritornare amico della mia cicletta. Beh, allora, innanzitutto la prima ragione è che ci ha già servito come appendiabiti e quindi insomma un po' di simpatia dobbiamo averla per la cicletta. A questo punto però possiamo anche tornare a farla, utilizzarla nel suo primario ruolo, che è quello di strumento di allenamento. Uno strumento di allenamento molto flessibile, perché ci consente di avere o un'intensità più elevata, un'intensità variabile, un'intensità più blanda e quindi di adattarsi a tutti i livelli di allenamento. E questo è una flessibilità che pochi strumenti hanno. Quanto devo usare la cicletta al giorno per vedere i primi risultati? 5 minuti, 10 minuti? Ma in realtà per i primi risultati quello che serve, perché insomma è un po' la gradualità, uno non deve porsi un obiettivo troppo sfidante perché rischia che il tutto sia poi controproducente, però partire con calma, già solo partire magari mettendolo davanti alla TV, utilizzando una serie o un qualcosa che ci distrae, è un buon modo. Poi dipende da quello che stiamo facendo e quello che è il nostro obiettivo. Dobbiamo ricordarci che la cicletta allena primariamente le gambe che sono uno dei gruppi muscolari più grandi del corpo e quindi comunque lo stimolo alla massa magra è uno stimolo importante. Poi ci sono tanti modi in cui può essere utilizzata. Può essere utilizzata ad esempio, se il nostro focus primario è quello del dimagrimento, può essere utilizzata con quello che è il famoso HIIT, quello che ormai conosciamo. Chiamiamo veloce veloce lento lento. Esatto, il nostro veloce veloce lento lento è una delle cose che si sposano meglio con la cicletta, perché avendo le varie regolazioni, la ghiera che si gira o i numeri o il cursore per cui si può regolare la resistenza, in realtà è uno degli strumenti che più facilmente si può utilizzare per fare HIIT. Uno sceglie un numero per quando è basso e sceglie un numero per quando è alto e fa un po' avanti e indietro con un cronometro. E quindi questo è un modo molto utile per bruciare tanto e molto utile per rimettersi in forma abbastanza in fretta. Perché quanto tempo? E in quale momento della giornata? Meglio alla mattina oppure alla sera, o l'importante è farlo? Beh, innanzitutto l'importante è farlo, questo. Farlo è meglio che non farlo. Certo, su questo non ci piove. Questo è la prima cosa. farlo è meglio ad esempio il pomeriggio la sera, in modo da avere comunque quella che è l'energia residua del pasto precedente, perché l'allenamento a digiuno è sempre un po' complicato e espone al rischio di andare a intaccare la massa magra che uno sta tanto sudando per costruire. Per cui conviene il pomeriggio, la sera, e bastano pochi minuti, perché fatto in questa maniera, veloce, veloce, lento, lento, in realtà già 10-15 minuti sono estremamente efficaci. Ma oltre a dimagrire, quali altri vantaggi ci offre? La bicicletta è un ottimo strumento per il recupero muscolare, per il recupero da un infortunio, perché ci consente in maniera abbastanza delicata di poter fare un allenamento, in questo caso un pochino più lungo, ma con un'intensità molto bassa, per cui una pedalata sciolta un pochino più a lungo ha il vantaggio di far aprire quello che è il microcircolo, favorire il ricambio, l'ossigenazione dei tessuti e quindi il recupero per chi è fermo da un infortunio, o il recupero muscolare per chi magari il giorno prima ha fatto un allenamento molto intenso e quindi il giorno dopo è bene che stia un pochino più tranquillo. È terapeutica per le articolazioni, è davvero un toccasana, come si dice, come utilizzarla? Allora, il movimento è un toccasana per le articolazioni già in sé. Il fatto che sia uno strumento in cui si sta seduti consente in qualche modo di evitare quello che è il carico di tutto il peso corporeo sulle ginocchia, specialmente quando il peso è un po' tanto. Però bisogna comunque tener conto che è bene anche andare a lavorare con tutto il corpo, anche quando il peso è tanto, perché bisogna rafforzare anche la muscolatura della schiena, che è quella che ci consente di evitare di avere dolori lombari, doloretti vari alle articolazioni quando poi uno si muove. Dottor Cappelletti, la suggeriamo anche alle persone anziane che non hanno magari tante occasioni per praticare attività sportiva, magari non vanno più in palestra, ma devono tenersi e mantenersi attivi? Assolutamente sì. Con quali attenzioni e indicazioni? Ma le attenzioni sono quelle di evitare di strafare, per cui di partire anche con 30 secondi, anche partire con un minuto, perché l'importante è davvero partire, per cui fare magari una settimana in cui uno fa solo un minuto, poi diventano due, poi diventano tre, poi diventano quattro, non avere fretta, assecondare il proprio corpo. E anche proprio in questa popolazione, diciamo giovane con più esperienza, è bene ricordarsi di fare anche un lavoro un po' più di forza e un lavoro che occupi anche la parte superiore del corpo. Questo per evitare proprio problematiche a livello di schiena, a livello di movimenti in consulti. È qua che la voglio, dottor Cappelletti, perché uno dice, sali in sella, ma ci sono strutture da tenere sulla bicicletta per svolgere bene gli esercizi e per far sì che tutta la muscolatura lavori in modo adeguato? Questo dipende anche dalla bicicletta che si ha, perché esistono molte varianti di bicicletta, esistono le bici da spinning in cui la postura è forzatamente molto spinta in avanti per mantenere l'equilibrio, e ci sono anche con dei sellini molto stretti e quindi neanche particolarmente comodi, oppure ci sono delle bicicletta molto più simili a una graziella o molto più simili a delle bici comode con delle sedute. Lei non era neanche nato, vero? Quando c'era la graziella? No, non ecco, ancora, vede. Però le graziella un po' se le ricorda, sono senza tempo, un po' come la Vespa. Senta, ma non è vale ancora la regola che la gamba deve essere distesa durante la pedalata? La gamba non deve essere mai completamente distesa, deve mantenere sempre un pochino di angolo, perché l'iperestensione del ginocchio è una cosa che va sempre evitata, perché va in quel momento non si sta più lavorando a livello muscolare, ma si sta lavorando a livello articolare, quindi il rischio è quello di avere degli infortuni. Quindi mantenere sempre la gamba leggermente piegata nel momento di massima estensione. Questo è un trucchetto che ci portiamo a casa. Dottor Cappelletti, quali altri suggerimenti può dare per aiutare le persone che ci stanno ascoltando a utilizzare la bicicletta? Parliamo anche delle persone che svolgono già un'attività sportive amatoriali. Possono avvantaggiarsi di esercizi sulla bicicletta? Assolutamente sì, anche per loro assolutamente la parte di recupero, la parte di lavoro a bassa intensità è fondamentale, associata a quello che è l'attività amatoriale, che può essere una corsetta, può essere il calcetto, può essere l'andare a sciare, e si può anche sfruttare in realtà una resistenza più elevata per andare a lavorare in maniera più intensiva sulla parte di muscolatura delle gambe, che è necessaria e fondamentale non solo per gli sport primariamente di corsa o di gamba, adesso siamo ancora in stagione sciistica per cui questo tipo di sport, ma anche invece in chi fa sport che parlano e che utilizzano principalmente la parte superiore del corpo per avere le solide fondamenta che sono necessarie per il movimento. Dottor Cappelletti, per chi non è indicata? Ciclette per tutti o non per tutti? Fatta bene, la ciclette va bene un po' per tutti. Ovviamente ci sono delle situazioni un po' più di attenzione, ovvero la posizione in cui si pedala non è indicatissima se ci sono delle infiammazioni lombari acute in atto, perché ovviamente il rischio che si vada un pochino a comprimere, un pochino a irritare le radici nervose c'è. Come anche invece, proprio per la questione, specialmente nelle bici da spinning, se c'è una prostatite acuta, bisogna fare un po' attenzione, magari utilizzare dei pantaloni foderati fatti apposta. Si può anche fare altro, no, esatto, professor, così, dottor Cappelletti? Può anche fare altro. Grazie, dottor Cappelletti, grazie a lei. Allora, buona pedalata a voi per fare nuovamente amicizia con la vostra ciclette. Noi ci sentiamo a mezzogiorno per le notizie della ricerca e poi subito dopo per una diretta Facebook. Buona giornata. Grazie Mattia, la mantiamo.